Cantine di Franciacorta. Un saluto, siamo la cantina Roncocalino, al confine tra i comuni di Adro, Erbusco e Cazzago San Martino, azienda nata dalla passione dell'industriale Paolo Radici, che nel 96 restaurò la casa appartenuta al pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Ad oggi circa 70.000 bottiglie all'anno, gran parte bollicine, ed una scelta produttiva che ci racconta Lara Imberti, alla guida dell'azienda. La filosofia nostra è non diventare mai grandi. Quindi una produzione sempre limitata, cercando di curare al massimo la campagna e successivamente la cantina. Quindi una produzione a Franciacorta in incremento sì, ma non un incremento limitato nell'ordine delle 60-80.000 bottiglie, non di più. Preferiamo rischiare, fare una produzione limitata, raccogliere meno in campagna, ma fare un prodotto d'eccellenza. È tutto, la prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.